sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù, hai ragione tu. Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente, ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente, ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente, come fosse per sempre, come fosse per sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo, gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere. Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente, ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente, ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. L'anima è pesante da portare addosso da soli, prendine un po' della mia, dammene un po' della tua e abbracciami forte, ancora più forte, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Le canzoni non devono essere belle,